Chiuditi a riccio, non leggere più niente, ma se proprio non ce la fai, ti consiglio La sublime ascesa di Nikos Kazantzakis, Crocetti Editore. Questo libro, rimasto inedito fino a qualche anno fa, è pubblicato appunto nel 2022 in Grecia, è diventato subito un caso letterario. Recentemente è stato pubblicato anche da Crocetti in Italia. Ed è un libro di Nikos Kazantzakis, che è forse il più importante scrittore greco del Novecento, autore forse del più rinomato Zorba il greco. Il protagonista di questo libro è Cosmas, un intellettuale cretese che durante la Seconda Guerra Mondiale ha abbandonato carta e penna per arruolarsi nell'aviazione. Conclusa la guerra, sposa Noemi, una donna ebrea che è sopravvissuta alla Shoah, e con lei ritorna a Creta. Ritorna a Creta dove si ricongiunge con la famiglia, la madre e la sorella. Anzitutto, il padre è mancato qualche settimana prima il suo rientro. Arrivato a Creta, a Eraclio, la capitale, intraprende un viaggio dentro l'isola per andare anzitutto a salutare il nonno, morente. In questo viaggio, in questa avventura tra i villaggi, scopre una Creta devastata. Villaggi che prima esistevano non esistono più, sono stati rasi al suolo. Un'isola, una situazione drammatica. Così, smosso un po' da questa vera e propria distruzione, decide di ripartire da solo per andare stavolta a Londra. E incontrare un gruppo di intellettuali e cercare di fondare una sorta di internazionale dello spirito. Il mondo, infatti, non ha imparato nulla, secondo Cosmas, dagli orrori del passato recente: gli operai sfruttati, minaccia nucleare, popoli senza libertà e senza patria. La sublime ascesa di Nikos Kazantzakis è un libro che parla di speranza, che parla sia appunto di distruzione, di fallimento sia personale, dell'individuo, ma anche di fallimento dell'umanità. È un libro che però smuove un po' come la coscienza di Cosmas, del protagonista, smuove un po' anche, soprattutto in questi tempi, le coscienze di noi tutti. Io sono Antonio Migliore, sono un libraio diverso, una libreria di Milano. E questo è il mio consiglio per voi. Chiuditi a riccio, non leggere più niente, ma se proprio non ce la fai, ti consiglio La nerezza del nero, a cura di Evo Liotti e Ruggero Canova, Zelle Edizioni. Numerose sono le espressioni che sin dall'antichità, pressoché in ogni civiltà, prima ancora che del nero si conoscesse il meccanismo scientifico, indicano il senso tragico, luttuoso, infausto, correlato al nero, che intrappola il fascio luminoso, che cattura senza restituire, non si lascia sfuggire nulla e per questo racconta di depressione e di morte. Dal gatto all'urlo, dall'umore alla giornata, dalla camicia agli occhiali degli esistenzialisti, dall'anatroccolo alla pecora, se di colore nero assumono valenza negativa. Ma il nero conserva in sé un'ambiguità che ha sempre costituito il fascino. Prende ma anche origina. Rimanda dunque alla fase alchemica della Nigredo, che ha a che fare con lo stato caotico da cui tutto ebbe origine. L'ambiguità del nero fa sì che all'idea di povertà e di cordoglio della cultura occidentale si aggiungano altri significati provenienti dalla cultura giapponese, in cui il nero è il colore dell'eleganza, dal fashion design all'usanza di geishe e di samurai, di donne sposate dei ceti poveri e degli uomini della famiglia imperiale, di annerire i denti a scopo estetico. Il nero è il colore della rivolta, dalle bandiere della pirateria classica a quelle anarchiche. È il colore del mondo cinematografico, dal nero come nero della sala al nero come stile, come nerezza all'italiana. È il colore del buio della notte, che dato per scontato nasce in realtà da motivazioni complesse e controverse. Il libro La nerezza del nero, nel suo susseguirsi di saggi sorprendenti, si inoltra in questo universo di simboli, di valori scientifici, morali ed estetici. scivola in un'infinita varietà di neri che disorientano. È un libro che analizza il nero come condizione limite del visibile sul piano scientifico, presentandolo come interruzione spaziale e temporale della luce, e sul piano psicologico, presentandolo come il compendio dei più grandi timori inconsci dell'uomo, l'ombra, il vuoto, l'ignoto. Un libro, dunque, che sposta l'attenzione da un fenomeno fisico a un luogo ancestrale del pensiero, e che così facendo insegna a sovvertire il sistema delle convinzioni e delle convenzioni in cui siamo ancora fortemente radicati. Sono Stefano Friani di Racconti Edizioni e sono qui per consigliarvi due libri che, siccome questo è il paese che amo e questo paese è fondato sul conflitto di interessi, saranno entrambi due libri di persone a cui voglio bene e che però disgraziatamente hanno scritto anche dei bei libri e quindi mi sembrava francamente corretto non menzionarli e non citarli. Siccome questo è il paese dell'amichettismo, non posso non cominciare con tutto quello che non doveva succedere di Andrea Gardoni, casa editrice Fandango, un libro che, siccome la nostalgia canaglia ormai non è più appannaggio della destra, ma è tutta nostra e di sinistra, ci riporta ai bei tempi andati in cui c'era i segretari del PC duravano vita natural durante come i papi e morivano addirittura sul lavoro talvolta, come purtroppo nel caso di Berlinguer, e ai 15 giorni che l'autore definisce di silenzio, che sono intercorsi tra l'ultimo rigore calciato alle stelle da Ciccio Graziani nella notte dell'Olimpico in cui la Roma perde la sua chance di fare l'ingresso tra le grandi del calcio europeo, schiantandosi contro un Liverpool forse altrettanto operaio, e se non di più, insomma, con un portiere Bruce Grobbelaar che ipnotizza bamboleggiando i tiratori dal dischetto della Roma, e la morte del segretario del PC. Quindi in questi giorni, in questi 15 mi sembra giorni, nella città si respira un clima irreale, raccontato e riempito dalle voci che Andrea Gardoni è andato a raccogliere, tra chi c'era, e chi non c'era e chi quel giorno inseguiva una sua chimera. L'altro libro di cui mi piacerebbe parlarvi è quello di Giorgia Sallusti, che faccio un coming out alla mia compagna. Ha scritto un libro molto figo che è una guida letteraria alla città di Tokyo attraverso le parole di Murakami e secondo me soprattutto attraverso le sue di parole, il suo sguardo. E il libro si chiama Tokyo con Murakami, l'ha pubblicato Giulio Perrone, editore. Ed è un modo, secondo me, molto interessante di zigzagare tra le vie di Ginza e quelle di Kimbo Cho, tra librerie, tra postacci che offrono cibo a buon mercato e whiskini. Insomma, è veramente è stata, diciamo, da lettore, perché poi, insomma, l'ho visto nascere, è stata una scoperta. E anche una scoperta di un autore che francamente non avevo mai considerato tanto come Murakami, non che me ne sia appassionato, però insomma sicuramente mi sono appassionato alla città di Tokyo. Ho fatto 4 minuti di audio e mi hanno detto 3. Ciao! Il consiglio migliore di tutti è sempre chiuditi a riccio, non leggere più niente. Ma se proprio non ce la fai, ti consiglio I ricordi dell'avvenire di Elena Garro, pubblicato da Edizioni Sur nella traduzione di Francesca Lazzarato. Elena Garro è una delle più grandi autrici messicane del Novecento e con questo romanzo ha anticipato di gran lunga molti degli elementi narrativi che avrebbero reso famosissimi i suoi colleghi scrittori maschi. È quindi ora di recuperare la sua opera. Se la Macondo di García Márquez e la Comala di Juan Rulfo ti dicono qualcosa, ecco, sappi che c'è stata un'altra celebre cittadina nella letteratura latinoamericana. Si chiama Ixtepec ed è la voce narrante dei ricordi dell'avvenire. Siamo quindi in Messico, intorno agli anni 30. Il paese è sull'orlo della guerra civile e Itepec è in balia di un crudelissimo generale di nome Francisco Rosas, che è consumato d'amore per una bellissima ragazza di nome Julia. Un bel giorno in città arriva uno straniero misterioso che metterà a soqquadro l'apparente monotonia del luogo, segnando in qualche modo il destino di tutti i personaggi di questo romanzo, in particolare della famiglia Moncada e della giovane Isabel, che è la protagonista. Si tratta quindi insieme di una storia d'amore, d'amore folle, amore impossibile, e al tempo stesso anche di una saga familiare dallo spunto storico. Secondo me è godibilissimo, è scritto stupendamente, perché Elena Garro, come dicevo, appunto, anticipa tanti degli stilemi di quello che poi verrà definito il realismo magico, senza spingersi mai nel fantastico. Sappiate soltanto che ci sono personaggi incredibili come il matto del paese, Juan Carigno, che ogni sera con il suo cappello va a raccogliere tutte le brutte parole utilizzate dagli abitanti di Itepec, in qualche modo per ripulire la cittadina dalle brutture del mondo e restituire le sue parole ai dizionari. E poi c'è un uso del tempo davvero davvero innovativo, perché si può dilatare, estendere e restringere a seconda di quello che conviene al racconto. Da qui il titolo, I ricordi dell'avvenire. Ecco, per me è una lettura estiva perfetta, tiene davvero incollate alle pagine come solo i libri classici sanno effettivamente fare. Consigliatissimo.